È la notte del 12 ottobre 2007, quando nella casa delle Caselle a Pietralunga i poliziotti in borghese mandati dalla procura di Perugia portano via Aldo e Roberta per possesso di qualche pianta di marijuana. Noi siamo i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf. Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf. Ma che cosa c'è? Buonasera, qui Anna Damolo e un'altra nuova Anna Damolo. E oggi parleremo però di fatti che è sulla nodala realtà universitaria o comunque precaria che trattiamo di solito, e parliamo esattamente di Aldo Bianzino. Cosa succede dopo appunto che Aldo Bianzino viene preso dalla sua abitazione insieme alla moglie? Quella notte, come abbiamo un po' anticipato, quella notte i poliziotti in borghese entrano nella casa di Aldo e Roberta. La casa viene perquisita, sia la casa che il giardino, e per qualche pianta di marijuana e per 30 euro, quello che la polizia ritiene il guadagno di uno spacciatore di successo, che crediamo. Dovrebbe cambiare mestiere in caso. Sì, perché... un po' sfortunato, no? Vengono portati in carcere e la stessa notte, divisi ovviamente, Aldo viene portato nel braccio maschile e Roberta nel braccio femminile. Dopo una notte in cui ci sono diversi dubbi, quello che sappiamo per certo è che il giorno dopo Roberta scopre che Aldo è morto. La prima giustificazione è che Aldo si è sentito male, anche Roberta viene trattata malissimo dal sovrintendente del carcere, che chiede se soffriva già, se aveva già qualche malumore, se non stava bene, se aveva qualche malanno interno. Però nel buio più totale l'unica cosa che si scopre nel giorno dopo è che Aldo è morto. E tra l'altro, quando sono andati appunto a prendere Aldo e Roberta, il resto della casa, diciamo il resto degli abitanti della casa, come sono stati trattati oppure come non sono stati trattati, nel senso come sono stati abbandonati? Certo, no, questa è la storia, ecco, diventa ancora più scandalosa proprio per l'operazione in sé, e anche perché è bene qui ricordare la figura di Aldo Bianzino. Aldo Bianzino era un uomo che tutti descrivono con un aggettivo, mite, potremmo usarne un altro, spirituale. È uno di questi ragazzi che fin tra la metà degli anni 80 abbandona le città per venire qui in Umbria, no? E nella nostra Umbria naturale, dove l'aria è fresca, dove si scappa dalla città, dove non succede mai niente, dove uno pensa di stare tranquillo nei propri monti. Aldo è una persona che aveva scoperto anche una spiritualità con i suoi viaggi in Oriente. E viveva, e un ebanista, viveva lavorando il legno in maniera artigianale, diciamo, una vita semplice. E Roberta e Aldo, insieme a chi vivevano? Chi altro c'era? Nella casa quella sera fino a che la famiglia era riunita, vivevano Aldo, Roberta e il figlio Rudra, che è proprio il figlio di Aldo e Roberta, e la nonna oltre 90enne di lei. Una donna, ovviamente un'anziana che aveva bisogno di tutte le cure, lucidissima mentalmente, ma che comunque impossibilitata a vivere in maniera autonoma. Sì. Con questa operazione. Non del tutto indipendente. No, esatto, con bisogno di aiuti comunque, sia per muoversi che per fare i gesti quotidiani. E quella notte quando viene portato via Aldo e Roberta, vengono lasciati in casa, in una casa in campagna, con la prima casa vicino nel raggio di 5 km. Vengono lasciati in questa casa Rudra, che al tempo aveva 14 anni, e la nonna oltre 90enne, che come abbiamo detto non era indipendente. Lasciati lì soli per... Dunque non avevano possibilità di mobilità, eventualmente di spostarsi. No, lo Stato ha preso padre e madre. Questo ragazzo si è trovato con lo Stato che in una notte gli ha portato via padre e madre, e non ha fatto vedere, e non si è presentato nessuno nemmeno per sapere. Ha fatto capolino un assistente sociale, ma si è presentato, ha dato un'occhiata e se n'è andato. Ed è stato lo stesso Rudra a chiamare un'amica di famiglia, Daniela si chiama, in cui gli dice: vieni, perché qua è successo una cosa grandissima. Ed è questo che poi ha fatto crescere Rudra in maniera spaventosa, un ragazzetto di 14 anni al tempo. E Aldo purtroppo sappiamo che è morto poco dopo, e Roberta invece cosa ha fatto dopo appunto che è stata portata via quella notte insieme a Aldo? Guarda, quella notte, vabbè, Roberta venne arrestata, dopo 3 giorni venne liberata, proprio perché nessuna prova, era un castello di sabbia tutta l'inchiesta. Il fatto è che Roberta poi nel tempo, anche un anno fa, sempre come studenti facevamo un incontro in cui venne anche Roberta a parlare proprio del caso di Aldo, e lei era già una donna che comunque mostrava segni di cedimento, era una donna molto combattiva, che non avrebbe mai smesso di portare avanti la sua battaglia, ma questo, come lei ci disse a fine assemblea, che questa è una cosa che ricorderò sempre, ci disse: a me questa cosa mi ucciderà. E infatti Roberta è morta nel giro di 3-4 mesi, è venuta a mancare anche lei, e ora Ruther si trova senza padre e madre. E a proposito di castelli di sabbia, quell'ottobre ne furono costruiti molti, quello... no? Quell'ottobre... Quell'ottobre uscirono un sacco di cose, non so, strane, curiose. Qui sicuramente tu alludevi all'operazione Brushwood. Anche lì arrestati questi pericolosissimi terroristi, con un'operazione da film, no? Sì, film. Hollywoodiano, e senza uno straccio di prova. Poi ecco, io mi piace, quando parlo di Brushwood, mi piace ricordare che uno di questi baby terroristi il giorno prima aveva votato alle primarie del PD. Esatto. Oppure un altro, aree di contiguità aree queste. Di contiguità. Oppure c'è quest'altro aneddoto fantastico sull'operazione Brushwood, in cui i capi, diciamo, quelli che la giustizia ha individuato come i capi, uno dei due capi, trovandosi i carabinieri alla porta con cappuccio e tutto, voleva chiama i carabinieri perché ha paura e non sa che cosa sta succedendo. Che è un tipico atteggiamento da sovversivi. Un tipico atteggiamento da chi vuole combattere lo stato delle cose esistenti, sicuramente. Per fortuna comunque, cioè, in ambedue i casi c'è stata una buona mobilitazione dal basso. Nel senso, ricordiamo che dopo appunto che Aldo Bianzino fu ucciso, ci fu una manifestazione molto partecipata, un interessamento. Sì, a livello... Diciamo che la società civile, quella cosiddetta società civile in questo paese, quando è chiamata ad atti di solidarietà, a presa di posizione, risponde ancora bene, nonostante le istituzioni o le stesse informazioni nazionali nascondano un po' questi eventi. La manifestazione che venne dopo Aldo fu una bellissima manifestazione, e anche tutto il retroterra che si costruì, cioè questo il comitato che ancora va avanti dopo tre anni, e le varie iniziative fatte per la città, oppure per tornare a Brushwood, i vari presidi fatti davanti ai carceri, la vicinanza, le cene di solidarietà. Ricordo anche, mi sembra un capodanno o un giorno prima di Natale, la vigilia, che sì, la vigilia passata si trascorse lì davanti al carcere. E che poi in quell'anno successe poi il fatto di Meredith, che tutti sappiamo, che venne poi strumentalizzato dai media nazionali per nascondere tutte le altre... E diciamo che si è passati da un discorso di difesa dallo Stato a un discorso dello Stato che doveva difendere i cittadini, e questo è una tendenza non debole oggi, diciamo. Non nuova. E sì, poi Michele Fabiani, se non sbaglio, ha passato anche alcuni mesi in isolamento. Sì, 3 mesi in isolamento. A Sulmona anche, credo sia stato in carcere, che dopo lo citeremo brevemente per descriverlo un attimo. Adesso sentiamo un pezzo che è Mappe della Libertà, degli Assalti Frontali. Stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita. Insomma, gli affari di un rapper militante, quando la mia city mi appare devastante. Era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante col mio passo di elefante. Ogni incrocio, detriti, ostacoli, mura, camion, frigoriferi e destini che mettono paura, prendi assalti. Prendi questa verde pop. La mafia si è mossa per metterci uno stop. Che facciamo? Che intrecci oscuri. Qui come lavori, incontri, ritorsioni.

E quindi per adesso l'unico troncone processuale che rimane aperto è quello della mancanza d'aiuto. E pur avendo, scusa se ti interrompo, avendo archiviato questa inchiesta contro ignoti, si fanno delle ipotesi sulla causa del decesso oppure... La causa del decesso viene attribuita ad un aneurisma cerebrale. Ora, a noi permangono diversi dubbi, non stiamo cercando una verità, ma stiamo cercando la luce, vogliamo che si porti alla luce tutti i dubbi che ancora permangono, perché potrei continuare per ore a dirvi i dubbi, ora qualcuno ve ne cito. Per esempio, Aldo muore per un aneurisma cerebrale, ok. Allora ci devono anche spiegare come mai viene ritrovato nudo sul letto con una maglietta che non appartiene a lui, con una finestra aperta ad ottobre inoltrato. Viviamo a Perugia, non siamo in Salento, in Sicilia, Florida. O in Florida, no? Questo sole, questo caldo. Ci sono... C'è il mancato prestamento di soccorso, vengono falsificati i registri del carcere, si evidenzia nel... Poi... Scusa se ti interrompo, ma anche le domande che vengono rivolte a Roberta, sì, diciamo che si può ipotizzare che tendessero a far confessare a Roberta dei malanni, diciamo che indirizzavano chiaramente l'interrogato su talune risposte. Sì, diciamo che l'aneddoto di come a Roberta vennero tirate fuori alcune informazioni fa ben capire un po' la situazione. Roberta viene chiamata dal carcere, dalla cella dove stava, arriva questo sovrintendente, capo, non si sa bene cosa, che incomincia a chiedere a Roberta se Aldo soffriva di qualcosa, se era già stato male, se aveva avuto problemi, e Roberta che non capisce. A un certo punto Roberta, dopo diversi minuti in cui continuava questa discussione, dice: ma io quando posso rivedere Aldo? Aldo com'è? Aldo dove sta? Il sovrintendente gli dice brutalmente: lo potrà rivedere domani dopo l'autopsia. E in quel momento Roberta scopre che Aldo è morto. Sì, poi è interessante questa perifrasi che ha utilizzato. Nel senso, non gli ha detto che era morto, gli ha detto lo vedrai dopo l'autopsia. Molto Roberta scopre in questo momento che Aldo è morto. E da qui incominciano i dubbi su che cosa sia successo ad Aldo. La cella dove Aldo era rinchiuso non viene sottoposta a sequestro, non vengono fatte analisi di alcun tipo. E poi... Ora, nonostante questo il troncone di processo per l'omicidio venga archiviato, c'è una prima autopsia che diceva, e cito per non sbagliarmi, in riferimento ad una lacerazione epatica, il medico legale della prima autopsia dice: la lacerazione epatica deve essere ritenuta conseguenza di un valido trauma occorso in vita e certamente non può essere ascrivibile al massaggio cardiaco, in riferimento al quale vi è una prova certa che avvenne a cuore fermo. Perché loro dissero, il PM, che poi voglio fare anche un appunto sul PM, giustificò la lacerazione epatica con un massaggio cardiaco fatto da due infermiere che, uno, sono specialiste, due signorine di... sulla trentina, magre, piccoline, che riescono a fare una lacerazione epatica e rompere le due costole con un massaggio cardiaco. C'è qualcosa che non torna. Sì. E ora faccio questo accenno a Petrazzini, perché noi come comitato stiamo battendo molto su questo punto, e non solo noi come comitato, ma qualsiasi persona abbia un attimo gli occhi non sbarrati da qualche ingombro. Petrazzini è lo stesso PM che ha firmato l'operazione di perquisizione e arresto di Aldo Bianzino, ed è lo stesso PM che porta avanti l'accusa nel processo per Aldo Bianzino. Ora, Petrazzini in tutto questo processo sarebbe stato al limite dovuto sentire come persona informata sui fatti. Infatti. Non come pubblico ministero che richiede l'archiviazione. Infatti. Sta archiviando se stesso. Che è intelligentissimo. Tra l'altro, nel mentre sono successe un po' di cose, però lui ha fatto questo errore e adesso si archivia. Certo, ma ci mancherebbe. Ora, ecco, l'unico troncone di processo che rimane aperto, in cui noi chiediamo... Dunque, riassumendo, questo sul perché è stato ucciso e questa inchiesta contro ignoti sono decadute, archiviate. Sì, archiviati il 16 dicembre 2009. E rimane aperto però un altro troncone, che è quello sull'omissione di soccorso. Omissione di soccorso, esatto, che riguarda una... Ecco, questo operatore, diciamo, questa guardia carceraria, che... Non voglio nemmeno fare il nome, proprio perché non stiamo cercando capri espiatori di nessun tipo. Ora, noi in quel troncone di processo, come Comitato Verità e Giustizia del Dobbianzino, ci siamo costituiti come associazione, siamo parte civile. Quindi alla ripresa del processo, che avverrà il 28 giugno 2010, saremo lì presenti in aula per portare avanti tramite i nostri avvocati le nostre battaglie, sia in sede processuale, sia in sede per strada, in società, sì, sempre stato fatto e continueremo a farlo. Infatti ricordiamo comunque i numerosi presidi che sono stati fatti, volantinati. Ricordiamo che a ogni udienza del caso di Aldo il comitato era presente davanti al tribunale, ricordiamo i concerti, le serate, le assemblee all'università, abbiamo cercato di mantenere vivo il ruolo di Aldo. Quali sono i prossimi appuntamenti che propone il comitato, che sta organizzando, insomma? Niente, il comitato si sta organizzando anche per aiutare a livello economico le spese legali della famiglia, perché vorrei ricordare, oltre a Rudra, che è il ragazzo che fu lasciato solo nella casa in quella tremenda notte, ci sono anche Elia e Aruna, che sono i figli di Aldo, avuti con la prima moglie, Gioia, che in questo momento è l'unica, diciamo, della famiglia che si sta occupando di tutti questi tronconi processuali, no? Diciamo che è sempre presente, però essendo una famiglia che vive di mercati, hanno bisogno di un aiuto, ma anche di forza e vicinanza. E niente, i prossimi appuntamenti continueremo a fine stiamo cercando di organizzare un bando artistico che parli sia a livello di letterare, di scultura o dipinti, che parlano del tema di Aldo, della repressione del carcere. E poi in vista del 28 di giugno vorremmo fare una 2 giorni su proibizionismo e carcere come a livello nazionale. Molto interessante. E a breve termine c'è qualcosa oppure sono solo questi eventi più sul lungo periodo? A breve termine adesso ci stiamo organizzando, perché circa 2 settimane fa abbiamo fatto un concerto benefit che andò molto bene, e ci stiamo organizzando con i soldi che sono entrati per cercare che pubblicheremo entro breve sul sito, per avere massima trasparenza su tutti i soldi che sono entrati, su come li spenderemo e quanti li spenderemo, dove andranno. E ci puoi dare il nome del sito, così magari chi si ascolta si può aggiornare? Sì, il blog è veritaperaldo.noblogs.org, tutto attaccato, e è attivo fin dai primi giorni, quindi si parte dalla grossa manifestazione dell'ottobre dello stesso anno in cui è successo e la vicenda di Aldo, fino a tutte le varie iniziative che si sono susseguite con i vari dossier e i collegamenti alle storie simili di Aldo, perché Aldo è il caso umano in cui noi trattiamo, perché viviamo qui. Ma potrei ricordare Federico Aldorvanti, Cucchi, non so, Rasman. Poi comunque diciamo che è quotidiana la morte o comunque il rischio in istituzioni come è quella carceraria oppure come nei centri di identificazione ed espulsione. Sì. E adesso ci sentiamo una canzone facendo la storia dei 99 posti. 1, 2, 1, 2, 3, tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. We're making history, it is no mystery, the winning victory, it is no mystery. We're making history, it is no mystery. Mystery, we're making history, it is no mystery, the winning victory, it is no mystery. We're making history, it is no mystery. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Non garetta piccia quando mi sono io. Una sabra santa all'angoppa cavalice cartone. Benvenuto, terrone, ada che secessione. Ti è piaciuta da buffa, goppa di disperazione. Ma non l'hanno mai inventata e non l'inventeranno mai. Un ristorante che ti assietta, magna roba, te ne fai, paghi il conto e lascia pure a mazzetto. Si no se incazzo e ammetta, fa come a purpetta. Mystery, we're making history, it is no mystery, we're winning victory, it is no mystery, we're making history, it is no mystery, we're winning victory, it is no mystery, we're making history, it is no mystery, we're winning victory, it is no mystery, we're making history, It is no mystery, we're winning victory. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Ma importa pagamento caro in mano certamente riducimmo l'inflazione in 1% mentre sopravviva stand. Dopo aver parlato di queste vicende abbastanza tristi e indignanti, parliamo di qualcosa che ci fa ben sperare nel futuro. Il 1° marzo è stato una giornata molto importante, c'è stato il primo sciopero degli stranieri e delle straniere che si è comunque concretizzato non nel classico sciopero come astensione dal lavoro, ma anche nella forma dello sciopero dei consumi e soprattutto delle manifestazioni in addirittura 60 città italiane. Anche qua a Perugia abbiamo avuto l'onore di costruire insieme ai migranti questa giornata, c'è stato un corteo abbastanza partecipato con musica, interventi e tantissimo giallo. E invece Anna Damolo del Tifernate, che ci racconti come è andata su? Ah sì, noi anche nell'Alta Valle del Tevere abbiamo cercato di portare solidarietà a questa battaglia, abbiamo riscontrato un sacco di curiosità e felicità soprattutto, cioè, ci hanno regalato grossi sorrisi un sacco di migranti che passavano quel giorno lì in centro. Siamo riusciti ad avere una minima relazione prima umana, prima di tutto, con i migranti che passavano e soprattutto con dei ragazzi che siamo riusciti a stringere dei rapporti e per costruire magari una prospettiva di relazione stabile e duratura, anche perché in questa Umbria falsamente pacificata è tempo di lavorare con i migranti. Poi non so se tu hai avuto questa impressione, ma forse il fatto che comunque in questo 1° marzo fosse necessario collaborare con loro, insomma dargli tutta la disponibilità possibile, questo aiuto che c'è stato in questa giornata è stato funzionale al farli prendere coscienza, al farli essere autonomi, al far capire che loro sono una forza, che comunicando tra di loro e unendosi sì, possono finalmente raggiungere questi diritti, possono togliersi da dosso queste mancanze giuridiche gravissime, anzi questa persecuzione giuridica. Diciamo che si ritrova. Possono aiutarci, possono aiutarsi e possono aiutarci, perché possono aiutarsi per migliorare la condizione e possono aiutarci a ricostruire una nuova cittadinanza, perché non stiamo chiedendo di allargare la nostra cittadinanza a loro, stiamo parlando di ricostruire una cittadinanza. E io penso che la cosa fondamentale di questo 1° marzo sia proprio l'auto-organizzazione con cui esatto, i migranti in tutte le città sono riusciti a creare appuntamenti. Anche perché non è che noi, ad esempio, posso dire, quella categoria giovani possa definirsi proprio cittadina, ci aspetta un futuro di precarietà ed esclusione, perciò sarà con altri precari e altri esclusi che dovremo costruire qualcosa. Ora vi ricordo i prossimi appuntamenti: la festa di venerdì 5 al centro sociale ex Mattatoio di Ponte San Giovanni con Overtrack Tribe e Friday Tribe. Poi l'assemblea di martedì 9 alle ore 6 presso la facoltà di lettere e filosofia aula 2 sul processo di Bologna. E poi dall'11 al 14 seguiteci perché aggiorneremo continuamente il sito ondaperugia.noblogs.org sugli ultimi fatti, sulla diretta di ciò che sta accadendo da Vienna, il controvertice degli studenti che organizza appunto delle contromanifestazioni quando si incontreranno lì i ministri dell'istruzione dei paesi europei. Ciao da Anna Damolo. Ciao. Guarda quelle onde, Johnny. Guardale! È un'occasione che non posso perdere, amico. Ti prego. Lasciami andare. Fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola. Sono Anna Adamo. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Sono Anna Adamo. Sono single, lavoro. Ho già passato le pellegrinaggi. Le nostre voci hanno già suonato e urlato e le piante. Rischio anche di vedermi rubare dalle segnalette. E ho vinto un concorso per italiano di storia negli istituti tecnici. Le nostre voci dentro questo palazzo. Non voglio violenze da sempre. Sono Anna Adamo. Voglio portare tutte